Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Paolo Corleone in regia e Andrea Zorzi qui di fronte a me. Ciao Andrea. Ciao Carlo, ben ritrovato. 800240024, io e Andrea vi vogliamo numerosi perché oggi si ricomincia a respirare sport a pieni polmoni dopo il sabato che abbiamo vissuto insieme, poi la domenica dello shock, del lutto, della tragedia che ha fermato tutti, come vi ricordate. Poi si è subito ricominciato a litigare il giorno dopo su quale giornata di campionato doveva essere disputata in questo weekend. Andrea? Spiraglio di luce, di sole, sì. Dopo una settimana un po' nuvolosa e... Sì, adesso sembra che il bel tempo stia arrivando. Beh, insomma, questo weekend c'è di tutto, dal calcio che ricomincia con, per questioni di calendario, come sapete, 4 anticipi di Serie A, quindi oggi mezza Serie A in campo a partire dalle 18, poi non senza polemiche, perché domani alle 12.30 c'è l'Inter a Firenze con la Fiorentina. Nel pomeriggio alle 15 da monitorare il Milan in casa con il Bologna e poi in serata c'è Juventus-Roma con Conte, che anche oggi, come tra poco sentiremo, si è difeso dalle accuse che sono arrivate sul fronte delle scommesse. Comunque c'è un sacco di calcio, c'è il classico che è calcio allo stato puro, anche se lì, la vigilia è stata abbastanza arroventata. Guardiola, auguri all'arbitro che dirigerà questa partita. Mourinho invece non si è visto in conferenza stampa. Vabbè, anche perché mi sembrava che qualche settimana fa fosse più tranquilla la situazione di Mourinho. Sì. Con qualche punto di più di vantaggio nella Liga. Adesso lo è un po' meno, con le sconfitte in Champions League e questa partita che è decisiva. C'è la Formula 1. C'è la Formula 1 in Bahrain, lì è una situazione abbastanza surreale. Beh, oggi in pista Vettel, prima pole position stagionale per lui, che era il cannibale di pole l'anno scorso. L'uomo da battere, a mio parere, rimane Hamilton, che partirà accanto a lui. Seconda fila con lo stesso schieramento, c'è una Red Bull e l'altra McLaren con Webber e Button. Quinto Rosberg, Ferrari sempre a rincorrere affannosamente con Alonso nono, Massa quattordicesimo. Ma soprattutto le notizie che arrivano da lì sono tutt'altro che incoraggianti, perché c'è questa situazione un po' surreale per cui c'è quest'isola, esatto, nel deserto, in cui ci sono i miliardari in macchina e fuori dalle macchine che corrono ad ogni costo, e fuori che si combatte tra i gruppi di opposizione al regime, alla monarchia sunnita. C'è stato anche un morto tra i manifestanti nella notte, sono stati indetti 3 giorni di collera in coincidenza con il Gran Premio. È un'area complicata, complicatissima per mille ragioni, perché relativamente da pochi anni il petrolio... Tu conosci Bahrain? Ci sono passato vicino un paio di volte, ho alcuni amici arbitri che vengono da quell'area. Ripeto, conosco un po' quell'area per la mia collaborazione con Al Jazeera Sport. Però una notizia che mi ha, come dire, colpito molto è che ad Abu Dhabi, altra città che ospita un Gran Premio di Formula 1, e andrebbe vista la Formula 1 come quello sport che nel corso degli anni ha cambiato le sue geografie quasi esclusivamente in base alla disponibilità economica, e questo ha dei problemi. Leverei il quasi. Comunque, Abu Dhabi, il primo pozzo di petrolio lo hanno scoperto nel 1976, quindi 50 anni fa. Qualche anno fa, sì. Ok, però vuol dire che in 50 anni le popolazioni di quell'area sono passate da essere nomadi, pastori o pescatori, in alcuni casi anche pirati, a gente che non ha idea quanti soldi hanno. Quindi 50 anni per una popolazione è un periodo storico inesistente. Certo. Prova ad immaginare cos'è accaduto in quell'area. Alcuni piccoli paesi hanno una tale proporzione, o meglio, hanno così tante persone ricche che i problemi sociali sono molto ridotti, perché tutti stanno benissimo. Nel caso del Bahrain la situazione è un po' diversa, perché avete visto i manifestanti, in realtà stanno iniziando a fare delle richieste di diritti umani. Sì. E la domanda, Ecclestone si occupa della sicurezza in pista e non dei diritti umani, è una richiesta più che legittima. Dopodiché è vero, quando siamo entrati nel mondo della comunicazione, sospendere il Gran Premio cosa significa economicamente, cosa significa anche come cassa di risonanza, cosa significa, è una domanda legittima, però se ne è parlato settimana scorsa. Se lo sport, la Formula 1 davvero, non si ferma mai. La domanda, secondo me, è: per davvero lo sport deve andare avanti come se niente fosse? Io ricordo che nel 2008, quando tutti quanti tirano in ballo gli olimpici per dire no, non possiamo partecipare alle Olimpiadi in Cina perché non rispetta i diritti del Tibet, avevo anche detto ma non possiamo però quando ci fa comodo tirare in ballo, tirare la giacca degli sportivi per chiedere a loro un sacrificio, quando la questione è come avete scelto la Cina per essere la città che ospita le Olimpiadi. Certo. Quindi insomma è un tema molto molto delicato, però per varie ragioni viene sempre fuori questa situazione molto complicata che lo sport non è solo la disciplina, non è solo l'evento, ma è molto di più, perché è una cassa di risonanza mondiale. Certamente, oggi c'è anche, è tornata naturalmente la Serie B, avete sentito prima nel giornale radio di un, beh, lo chiamerei infortunio occorso a un giocatore della Nocerina, perché di questo si tratta. Ci sono anche risultati che vi do così al volo: Juve Stabia che vince 2-1 sul campo della Binolef, Bari Torino 0-0, risultati importanti per il vertice della classifica, così come la sconfitta del Verona 3-1 a Crotone, il Modena vince 3-1 ad Empoli, l'Ascoli batte 3-1 il Brescia, la Regina vince 4-0 a Nocera, Vicenza-Sampdoria 1-1 e perde anche il Sassuolo in casa con il Gubbio, risultati assolutamente sorprendenti questi per la Serie B dopo il 6-0 del Pescara ieri a Padova, quindi questo turno favorevole alla squadra di Zeman. Volendo, in questo weekend c'è il tennis e anche lì vado sulla cronaca con lo 0-2 dell'Italia ad Ostrava contro la Repubblica Ceca, perché Schiavone ed Errani, Francesca Schiavone e Sara Errani, hanno perso i rispettivi singolari contro la Safarova e la Kvitova, sono avversarie di grande livello. Ostrava, città Ostrava, mineraria ai confini con la Polonia. Bravo. E me la ricordo perché nel 2001 ci fecero gli europei di pallavolo. Sì. Esattamente quando l'11 settembre le Twin Tower furono colpite e noi eravamo nel palazzetto e la prima domanda fu: è cascato un aereo contro una Twin Towers? 10 minuti dopo un altro aereo. E cosa successe? È successo che il campionato è continuato, però alla sera c'era una piazza di questa vecchia città abbastanza grigia, mineraria, quindi grigia, che era strapiena, ma strapiena di fiori e di piccoli bicchieri con le candele, e questa situazione in cui uno non sapeva bene cosa immaginare, perché all'inizio si diceva ma no dai, due incidenti così, poi le voci si accavallavano e poi arrivò, e quindi Ostrava è segnata anche da questo ricordo. Comunque si continua a giocare, si continua a giocare. C'è la pallavolo oggi, c'è la pallavolo e c'è la vigilia della finale scudetto secca, che a me piace da morire. V-Day si gioca domani al Forum di Assago, tutto esaurito. Forum tutto esaurito, Trento contro Macerata. Macerata ci è arrivata solo qualche giorno fa battendo Cuneo in una finale, una gara 3 un po' rocambolesca, con Bissotto, schiacciatore di Cuneo, che poco prima della partita ha sentito male e non ha potuto giocare. Con Omrsen, schiacciatore di Macerata, squalificato, che non poteva giocare, quindi quella che sembrava essere una partita con tante mancanze ha dato l'accesso a Macerata, che dopo 6 anni torna in finale contro Trento, che ha il favore del pronostico. Ma come tu dicevi, il V-Day, o comunque Super Bowl per usare un nome molto più conosciuto, essendo gara secca, di solito può riservare anche sorprese che uno non si aspetta. Tanto, a proposito del giocatore infortunato della Nocerina, prima avete sentito la notizia nel GR, si tratta di Marco Pomante, difensore della Nocerina, ha subito un colpo alla gola, è stato portato all'ospedale, ma l'episodio non è grave, è cosciente, sta bene, dunque trattasi di infortunio di gioco. 800240024 per parlare con noi, con il sottoscritto e soprattutto con Andrea Zorzi in questo sabato pieno di sport, in questo weekend pienissimo di sport. Domani c'è l'ultima grande classica del nord, altro argomento di cui parleremo dopo, la Liegi-Bastogne-Liegi, si corre la maratona di Londra sul tracciato olimpico e poi faccio raccontare da Andrea una c'è stato uno scambio oggi di notizie sullo sport, di erudizione sportiva, e poi parleremo anche di un altro tema. Esauriamo un attimo l'argomento, naturalmente poi tornandoci con un protagonista. Perché è importante per la pallavolo questo weekend? Ma dunque è importante perché c'è il V-Day, si assegna lo scudetto un po' in fretta, perché settimana prossima c'è il primo torneo di qualificazione olimpica per la nazionale. È importante anche perché tra un'ora, anzi tra 40 minuti, si gioca l'ultima partita della Sisley con questo marchio, che è ormai storicamente più importante, perché i Benetton, come tutti sanno, hanno scelto di disimpegnarsi nel basket e nel volley. Oggi c'è l'ultima partita che assegnerà l'ingresso nelle coppe europee per l'ultima volta con una squadra di pallavolo che ha il marchio Sisley. E che tu hai avuto. Che io ho avuto per due anni. Che sensazioni ti dà questa... Dunque, mi mette tristezza perché è sintomatico di una situazione complicata per la pallavolo, ma per gli sport in generale, ed è strettamente legato alla crisi economica. Mi sembra talvolta che siamo fin troppo pessimisti, perché commettiamo l'errore di pensare che lo sport professionistico, cosiddetto tale, sia l'unico vero valore che rimane, e quindi come se una mancanza di disponibilità economica togliesse tutta l'importanza che una squadra ha nel territorio, e non penso sia così. Occorre cambiare prospettiva. Non si potranno mantenere i livelli precedenti, ma questo non significa che lo sport, una disciplina, la pallavolo nel caso di Treviso, scompaia e non lasci sul territorio un po' di segnali. Certo. Massimo Calegari da Mediaset Premium, ciao Massimo. Ciao, buon pomeriggio a tutti. Stasera immagino dovrai guardare il tristo campionato italiano per questioni professionali, no? Sì, però insomma, fino alle 22 credo. Fino alle 22, perché poi c'è Guardiola contro Mourinho, Mourinho contro Guardiola, e auguri all'arbitro e quell'altro che non va in conferenza stampa. Ti dico che in settimana, insomma, no, io non riesco a nascondere il mio tifo per le altre due, no? Bayern Monaco e Chelsea in settimana sono rimasto abbastanza soddisfatto. Stasera tifo Real, invece. Cosa vuoi sapere, chi tifo io oppure una valutazione complessiva? Chi tifi tu e una valutazione complessiva? No, beh, io diciamo spero sempre che chi fa il calcio più bello vinca. Non mi sono stancato assolutamente, come tanti invece sento, del Barcellona e delle sue continue vittorie. Credo che quest'anno nella Liga, nonostante le lamentele, le polemiche di Mourinho, molte situazioni anche arbitrali siano state a vantaggio del Real Madrid, ma che il Real Madrid non sia davanti chiaramente per questo, ma perché ha avuto più continuità e molta, molta più fame, soprattutto nelle partite con le squadre minori, in cui Barcellona in trasferta ha concesso parecchio. In Champions, devo dirti, ho apprezzato molto il Bayern, che mi ha sorpreso non per che non lo considerassi, ma perché veniva da un periodo negativo in campionato, molto meno il Chelsea, che credo abbia giocato una partita peggiore di quelle che ha giocato il Milan con il Barcellona, che già sono state di un calcio abbastanza povero, e il Barcellona ha giocato molto meglio di come aveva giocato con il Milan, però siccome il calcio rimane uno sport strano e misterioso, ha raccolto meno. Tu per chi tifi, Andrea? Io per il Barcellona. Barcellona. E tu per chi tifi Real? Ma perché mi è più simpatico nel Madrid. Perché si è stancato, no? Fa un po' l'anticonformista lui, Andrea. Sì, esatto. Attenzione. Quando attaccano Mourinho, lui lo difende. Se lo difendono, lui lo attacca. Ma questa qui è una malattia che prende i conduttori radiofonici, a Radio 24 soprattutto. No, ma comunque io è dall'inizio che tifo Real. Tifo Real perché insomma, il Barcellona ha troppi tifosi, è troppo bello, pettinato bene, vestito bene, come elegante, assopiglia tutto. È troppo di tutto, quindi preferisco quegli altri che sono un po' meno, lasciando stare anche il fatto che il Barcellona, vallo a raccontare al Malaga, l'ultima l'ha vinta con un rigorino un po' così, ma tanto in Spagna io li invidio molto perché non se ne ricorda più nessuno, e poi li invidio molto per un'altra ragione, cioè per il fatto che scaramucce verbali, scaramucce tra allenatori, tensioni in campo, però questa sera a Barcellona ci saranno i tifosi del Barcellona, non ci saranno per abitudine, perché non si seguono le trasferte lì, non ci saranno ultra treni speciali. Allora, non è notizia di cronaca, quindi in realtà conta poco, ma in settimana nei miei viaggi in aereo ho letto un pezzo su Messi in cui si raccontava della sua infanzia difficilissima, delle sue difficoltà anche di natura fisica, del fatto che il Barcellona gli ha permesso di curarsi. Qualcuno dice anche che proprio questo rapporto profondo di Messi col Barcellona lo renda per davvero un ragazzo con la maglia tatuata, ed è per quello che gioca meglio col Barcellona di quanto non faccia con l'Argentina. Secondo me argomento pretestuoso, non ci credo. Gioca meglio nel Barcellona perché il Barcellona è una squadra straordinaria, e qui, ma poi rischiamo di aprire il vaso di Pandora, qui sta la grande differenza tra Messi e e il suo predecessore, no, io voglio vedere Messi, vorrei vedere Messi fare quello che fa in un'altra squadra. Non dico che cioè, è naturalmente un fenomeno, è il più forte giocatore del mondo, inutile stare a fare ad aggiungere elogi alla lista, però mi piacerebbe così vederlo vincere con un'altra maglia. Sì, è anche vero che il senso di appartenenza, secondo me, non in rapporto a quello che lui ha con l'Argentina, che sono esattamente uguali, ma in rapporto a quello che altri giocatori molto forti hanno magari con altri club in cui non sono cresciuti, qualcosa in più gli può dare. E poi quest'anno soprattutto, ribadendo il fatto che sicuramente il Barcellona aiuta Messi a esaltare le sue qualità, però quando lui ha segnato, quando lui è stato ad alti livelli, il Barcellona lo ha seguito, senza il suo apporto realizzativo il Barcellona ha fatto molta più fatica quest'anno. Sì, non c'è dubbio. Aggiungo solo che alla fine a me, però, vedere Messi, che è un grandissimo campione, che hai ragione che non ha vinto con altre maglie, ma che per esempio non è nel jet set con le modelle, si comporta come persona, come ragazzo, come uomo normale. Non simula mai. A me questa cosa piace. No, ma certo. È un motivo in più per dire che questo ranocchietto è veramente un fenomeno. Ti capisco, il diavolo è l'acqua santa. Tu prendi Ronaldo allora. Io prendo Cristiano Ronaldo. Allora, no, ognuno si prende i suoi, eh? È più divertente. Se tutti stanno con Messi, ci spacchiamo le scatole. Così è più divertente. Non so, lo chiedo anche agli ascoltatori. 800 24 00 24. Massimo, stai per dire una cosa. Quale? Sì, no, ecco, stavo per dire che una cosa che mi ha colpito invece, al di là di quello che diceva Carlo, che è vero sul contesto, sul fatto che la partita comunque si vive in modo diverso, però mi ha colpito molto che Guardiola abbia detto: queste partite qui, in qualsiasi modo vadano a finire, ti lasciano sempre di più il ricordo della fatica, della tensione, della sofferenza rispetto alla gioia. Questa cosa mi ha colpito molto, devo dire. Sì, anche a me ha colpito, ed è una dichiarazione molto interessante. Bicchiere troppo pieno per Guardiola. Ha iniziato, è cresciuto, ha vinto, è migliorato, ha guadagnato. Adesso è talmente in alto che sente molto più la pressione di continuare a mantenere quel livello lì, esatto. quel livello è troppo, lì troppo pieno è troppo in alto. Intanto notizie di agenzie dicono di nuove tensioni in Bahrain, ancora scontri, manifestazioni di protesta, gas lacrimogeni, dimostranti che hanno lanciato una molotov, eccetera, quindi abituiamoci che non sarà un weekend normale laggiù in Bahrain, sicuro domani alle 14. A proposito di tensioni di altra natura, Massimo, poi ti saluto. Quali segni possono lasciare, se possono lasciare dei segni, queste voci su Conte, queste accuse di nuovo piovute su Antonio Conte da parte di Carobbio, ex del Siena, che l'ha ritirato in ballo nella questione delle scommesse? Sinceramente non conosco Conte così bene da poter dire che tipo di segni può lasciare una situazione del genere, comunque ancora tutto da verificare, però è possibile che i segni possano essere molto più evidenti a fine anno, nel senso che quest'anno credo che in questo momento lui e l'ambiente ormai, per come sono arrivati a questa volata finale, siano immuni a qualsiasi tensione. Se dovessero esserci delle verifiche su queste accuse e dovesse esserci un provvedimento nei suoi confronti che lo costringesse a lasciare anche solo provvisoriamente la panchina della Juventus, sarebbero conseguenze molto pesanti, perché lui veramente ha dato l'impronta murignana, devo dire, visto che ne ha parlato molto in questi minuti alla Juve. Sì, sono d'accordo con te. Ciao Massimo, grazie, a presto. Ciao a tutti. Ciao, buon divertimento. Grazie anche a voi. Domani. Ciao. Vi faccio sentire cosa ha detto Conte, poi parliamo con Valerio da Roma a proposito di queste accuse oggi in conferenza stampa. Ho letto, c'è un'indagine, sono molto sereno nel fatto che comunque è fiducioso nelle istituzioni, perché devono fare il loro lavoro. Io non sono stato chiamato da nessuno, nel momento in cui dovranno chiamarmi avrò il piacere di vedere queste persone. Ma su questo l'avevo già detto in precedenza, perché non vi dimenticate che solo una settimana fa eravamo tornati di nuovo sugli stessi argomenti. Ho detto che questo non fa altro che triplicare la nostra forza, la nostra cattiveria, la nostra voglia di fare qualcosa di super straordinario. Queste le parole di Antonio Conte, e c'è invece qualche ascoltatore, vedo gli sms, che non dico è d'accordo con me, però sottolinea come Cristiano Ronaldo ha dimostrato quello che vale già nel Manchester United, e l'ascoltatore dice: vorrei vedere Messi in Inghilterra da Abramovic, da un'altra parte, al Chelsea, insomma, vedi? Sì. Dicendo poi che ecco un'altra bandiera che si è venduta ai petrodollari. Diciamo che ciò che ci interessa è sempre quello che non viene fatto. Sì. Vogliamo le bandiere. Messi teoricamente è una bandiera che gioca bene. In senso anche, no, non è che le cerchiamo perché sono così necessarie, ma cosa c'è di bello in Messi? È lì, da quando è piccolo. Gioca bene a calcio, in una bella squadra, in un bello ambiente, con una bella motivazione. Non ha mai fatto delle stupidate gigantesche. È una bella storia. Sì, no, però, guarda caso, ci interessa di più. Ma da un punto di vista sportivo, cioè, così. Fai il conduttore radiofonico, quindi c'è bisogno di dare un po' di pepe. Valerio Roma, grazie per l'attesa. Dica. Ma è stato un piacere. No, buonasera. Io buonasera. Volevo approfittare della vostra natura nazionale di emittente di comunicazione. Sì. Perché come credo voi sappiate, a Roma c'è un concetto di Vox Populi che è molto forte, anche grazie a quel orrendo strumento delle radio locali. Sì. Praticamente. E c'è una grossa convinzione a Roma, che io non so da cosa sia suffragata, ed è quello che vorrei chiedervi, per cui il risultato finale di questo che metterà la classifica a fine campionato sarà poi evidentemente stravolto da alcune squalifiche e penalizzazioni che riguarderanno alcune squadre coinvolte. Ora io vi chiedo questo perché naturalmente, siccome praticamente credo che voi sappiate che purtroppo sempre a Roma ormai da un po' di anni l'obiettivo è arrivare sopra la squadra, sì, l'altra squadra, l'altra della squadra capitale. Capitale naturalmente. Ma lei Valerio fa questa domanda, però sa perfettamente che io non riesco a darle una risposta, cioè non lo so se la classifica verrà stravolta, per il momento però, sono voci. Tradotto per me, se qualcosa di queste accuse di scommesse venisse verificato, toglierebbero dei punti in classifica e questa cambierebbe? Beh, è così, sì. Okay. È questo il discorso, è chiaro che le voci delle radio romane sono interessantissime, Perace. Ma difficilmente insomma, controllabili. Al momento è difficile in questo momento avere delle certezze, insomma. Allora, cari ascoltatori, io non ho mai detto Messi tutta la vita, come qualcuno insinua via SMS. Messi mi piace di più come giocatore rispetto a Cristiano Ronaldo e mi è anche più simpatico. Per oggi mi prendo il diavolo e tifo Real Madrid. Mi sembra ci sia nulla di male. Maurizio da Bari non ci ha aspettato, speriamo torni, insomma. 800 24 00 24. Ma allora pensiamo a Pelé, quanto rammarico abbiamo noi sportivi che non si sia mai confrontato con il calcio europeo. Con Messi è più o meno lo stesso concetto, no? Mi sembra che Messi con il calcio europeo si confronti tutti i giorni, insomma, e la sua grandezza è indiscutibile, non scherziamo nemmeno. Tra le altre cose, il momento dell'erudizione sportiva. Aspetta un attimo con l'erudizione sportiva e la maratona, perché c'è un tuo amico in linea. Presentalo tu, Pasquale Gravina. Ben arrivato a Radio 24. Grazie, ciao, buonasera Pachi. A tutti. Ciao Pachi, dicevo, no, raccontava Andrea prima di questa maglia che entrambi avete vestito e che oggi insomma scenderà in campo per l'ultima volta. Questo è un giorno storico, perché il marchio Sisley, così come il marchio Benetton nel basket, hanno fatto la storia dello sport. Purtroppo, come tutte le cose che hanno un inizio devono avere anche una fine. Avrei preferito ovviamente non dover assistere a questo giorno e soprattutto non doverla accompagnare a questa chiusura, ma ritengo comunque che tutto il gruppo che ha lavorato in questi anni insieme a me lo abbia fatto con grande senso di lealtà, di professionalità, quindi non abbiamo niente da recriminarci. È un giorno sicuramente non positivo, non felice. La pallavolo andrà avanti, però credo che nel corso del tempo tutti si renderanno conto che cosa è stata la Sisley Volley per la pallavolo italiana, non soltanto trofei vinti, grandi risultati, ma soprattutto un modo di gestire lo sport del quale in Italia ci sarebbe bisogno. Tanto per dare un'idea quanti atleti hanno militato con la maglia della Sisley sulle spalle, in questa ultima settimana hanno chiesto i ragazzi della Sisley di mandare un brevissimo video messaggio per dire cosa ha rappresentato la Sisley per me. Quanti messaggi vi sono arrivati, Pasquale? Ah, ne abbiamo già ricevuti più di 50 e sono tutti quanti giocatori, ovviamente. Stiamo preparando una chiusura dopo la partita di oggi, alla prossima settimana, insomma, faremo una chiusura video, credo molto bella, che in parte, insomma, anzi non in parte, raccoglierà tutti i volti che hanno condiviso questa storia assolutamente straordinaria, credo. Mettiamo insieme due domande. Una è un pronostico facile o difficile su domani tra Trento e Macerata. Tu cosa pensi? Io penso che la squadra favorita per caratura tecnica e per alcune individualità resti Trento, però l'inerzia di questa semifinale scudetto, che ha visto Macerata in rimonta, il che significa sempre acquisire consapevolezza delle proprie capacità, potrebbe assegnargli un ruolo davvero da squadra convinta di poter vincere. Io penso che Trento resti favorita, ma spero per la pallavolo, per il bene anche della pallavolo, che ci sia un ricambio, spero che possa farcela, e soprattutto anche della nazionale italiana, spero che possa farcela Macerata. L'altro pronostico è a qualche settimana, Italia maschile alle Olimpiadi? Andrea, sai benissimo che tifiamo tutti per la nazionale, non sarà facile, perché vincere a Sofia in casa della Bulgaria con la Serbia non è un compito semplice. È anche vero che se si vuol far parte della storia delle Olimpiadi bisogna guardare negli occhi squadre come queste e battere possibilmente anche a casa loro, quindi spero che ce la facciano, altrimenti ce la faremo sicuramente nel girone internazionale, che è l'altra possibilità che abbiamo, sì, per qualificarci. Ultimissima cosa, tu da qualche anno ormai sei un dirigente che ha tentato anche di innovare un pochino questo ruolo. Questo è un pronostico un po' più complicato, anche perché il futuro non è così roseo, però la pallavolo sta subendo, come tanti altri sport, l'effetto della crisi. Quale potrebbe essere la strada che la pallavolo deve seguire per andare avanti, guardare con un po' più di ottimismo? E aggiungo anche, Pasquale, se me lo consenti, questo in generale ti chiedeva Andrea, nel particolare il vostro futuro, perché oggi avete una partita tra un quarto d'ora, quindi adesso ti lasciamo, per la qualificazione alla CEVA, però il futuro qual è? Futuro della pallavolo, come chiede Andrea, secondo te, e di Treviso in particolare? Ma io credo che lo sport, un po' in tutti i paesi del mondo, rappresenta spesso la società nel quale si manifesta. La società italiana in generale è una società in questo momento che ha la grande opportunità di cambiare un modello che non funziona, i risultati parlano chiaro. Non è ovviamente tutto quanto da criticare, ma alcune cose vanno cambiate. E questo rispecchia anche la gestione dello sport, e in particolare del mio, che è la pallavolo. Credo sia necessario iniziare a pensare soprattutto in termini più moderni, quindi con una comunicazione molto più ispirata di quella attuale, con una capacità anche di fare una politica di marketing che io in questi anni non ho mai visto, sia a livello nazionale sia a livello di Lega. O se si è vista è insufficiente, dobbiamo iniziare a comunicare diversamente, perché purtroppo oggi siamo poco visibili, e ciò che non è visibile, voi lo sapete meglio di me, ha sempre poca attenzione, quindi si innesta un circuito negativo anche per la raccolta di sponsorizzazioni. Insomma, per gestire un bilancio è necessario anche avere i ricavi. Oggi la pallavolo e forse anche la pallacanestro vivono troppo di mecenatismo. Non è una gestione che ci possiamo più permettere. E Treviso? Treviso chiude, come annunciato già un anno fa dal gruppo Benetton, e questa per noi è l'ultima partita. Credo che sia una partita abbastanza inutile anche per la formula, che non ha il peso che avrebbe dovuto avere, ma lo sapevamo tutti. Noi la onoreremo come la onorerà Piacenza, ma è una partita secondo me che non serve a nulla. Grazie Pasquale, grazie. Ciao, ci vediamo martedì. Bene, grazie a voi. Pachi. Ci vediamo martedì, perché martedì prossimo c'è il Bovo Day, e quindi questa partita importante con il Pala de André a Ravenna già esaurito, in cui si ricorderà con una partita di volley la scomparsa recente di Vigor Pavolenta. So che è una domanda che non ti piace, ma la pallavolo non si è fermata il giorno dopo? No, non si è fermata il giorno dopo, hai ragione. E anche la settimana scorsa, quando eravamo in diretta, avevo cercato di capire innanzitutto qual era la mia posizione, e la mia convinzione è che non è fermarsi o continuare ciò che in qualche modo fa diventare giusto o sbagliato la nostra scelta, ma è che cosa provoca in noi personalmente, cosa succede nel movimento più in generale. E non credo che questo dipenda dal fermarsi, che potrebbe essere il massimo dell'ipocrisia o potrebbe essere anche semplicemente il modo per non pensarci. Quindi ancora una volta, non è fermarsi o continuare ciò che ci conta. Tu mi dicevi, nel caso del calcio, due giorni dopo si parlava già di polemiche. Sì, c'erano già polemiche su quale giornata recuperare. Io ho sentito, adesso ci fermiamo per il traffico, però ho sentito molto pessimismo nelle parole di Gravina. Dunque, Pasquale si occupa da un paio d'anni della pallavolo professionale, sì, di altissimo livello, che si ritrova in un vicolo cieco, nel senso che non ci sono più le risorse economiche per andare avanti, se non in presenza di qualche mecenato. Beh, questo vale anche per gli altri sport, questo vale anche per il calcio. Vale per tutti gli sport professionistici. Quando parlava che è necessario cambiare criterio, è necessario cambiare organizzazione, a questo secondo me si riferiva anche. Non possiamo pensare che lo sport sia un'azienda che si muove con vecchi criteri e pensando solo ad aspetti strettamente economici. Bisogna ridurre i livelli, cioè deve costare di meno, punto. Deve costare tutto di meno, tutto deve costare molto di meno. Si deve partire da quello. Sì. Questo non significa la morte dello sport, significa che per molti, tra i quali ho fatto parte anch'io, significa guardare indietro e dire: ah, non è più bello come una volta. Ma questa è la base di partenza. Su quello si possono costruire realtà che possono funzionare meglio di quanto non vada adesso e anche sostenibili. Si parte riducendo i costi, tutto il resto viene dopo. Traffico poi, Maurizio, finalmente ce la faremo, glielo prometto. No, Andrea, tra l'altro c'è un articolo molto interessante di Mario Sconcerti, un fondo su un corsivo sul Corriere della Sera, dove sottolinea come i grandi giocatori siano ormai troppo concentrati in alcune superpotenze. Questo accade in tutti gli sport. Accade in tutti quei paesi in cui il mercato... Parlavamo di mecenatismo, parlavamo di questi discorsi. Ci sono pochi oligarchi che hanno molti soldi e prendono tutti i giocatori migliori. Quindi questo cosa ha prodotto in tutti gli sport ad ogni livello? Ha prodotto un'oligarchia di squadre sovradimensionate rispetto ai rispettivi movimenti. È la vera grande battaglia che dovremo affrontare prima o poi. Se lasci libertà assoluta, soprattutto ai soldi, e poi non puoi lamentarti se chi è più ricco ha dei poteri in più. Se provi a regolamentare, a volte si passa come una specie di nemico della libertà. Il fair play di cui Platini si è fatto portavoce è chiaro che porrà dei limiti, ma è un tentativo per fare sì che vengano equilibrate queste. C'è la regola degli Stati Uniti, degli americani, cioè, salary cap, è una cosa molto diversa, però anche lì funzionano solo quando vivi in un contesto in cui questi aspetti vengono rispettati da tutti. E quindi prendere i salary cap e metterlo in Italia, 9 su 10 non funziona. Sì, no, ma è un meccanismo Abramovic, profondamente diverso. Abramovic, i suoi soldi. E ci fa quello che vuole, certamente. Però poi dobbiamo accettare che se lui vuole si porta a casa tutti quanti. E a me non piace moltissimo. Sì. Preferirei che anche Abramovic dovesse dire: sì, ok, io soldi ce li ho, però visto che lo sport è bello, soprattutto perché in qualche modo c'è un po'. Il discorso che vale anche per Moratti e Berlusconi, volendo. Assolutamente. Ma è così. Allora, abbiamo ancora 5 minuti e vorrei parlare di ciclismo, però prima maratona di Londra. Domani si corre, tra i 1020 di questo weekend di sport, si corre la maratona di Londra sul percorso olimpico, quindi sarà particolarmente importante. Tra l'altro già vi dico che domani pomeriggio ne parleremo. Bravo. Domandone, quanto è lunga una maratona? 42 km e rotti. Sì. Chi è un po' più esperto sa 42 km 100 e 95 metri. Sì. Ma da quando? Da quando Filippide, che era questo soldato, le 490 corse da maratona, città a circa 40 km da Atene, per annunciare la vittoria contro i persiani? Perché lì è nata questa corsa. No, in realtà lì erano 40 km più o meno. Sono diventati 42 km 195 quando nel 1908, proprio a Londra, la maratona partì davanti al castello di Windsor. Ma per farlo arrivare davanti al palco reale l'hanno allungata di 352 metri, facendo diventare 42 chilometri 195 metri. Certo. Da allora è diventata, anzi da qualche anno dopo, la distanza ufficiale. Non è mica far spostare i sovrani di un paio di chilometrini. E neanche la partenza. Questo non lo sapevi, non lo sapevate voi, non lo sapeva neanche Pier Augusto Staggi, vero? No, ma in realtà non... non me la ricordavo così bene, però l'avevo letta, quindi la sapevo, ma quindi è stata una bella però era stata una bella, è stata una bella ripassata. E l'anno olimpico, ogni tanto qualche aneddoto così bisogna... Qualche aneddoto ci vuole. No. Quanto è lunga la Liegi-Bastogne-Liegi? 257,5 km, ma non si arriva sotto il palco reale. Sotto gli sponsor si arriva. Si arriva in una zona brutta, devo dire proprio brutta. È talmente bella la gara, è talmente importante, è talmente affascinante, però arriva in una delle zone più depresse. Sì. E tu, Carlo, forse te ne ricordi. Sì. Perché credo che qualche 10 l'hai fatta anche tu. Si arriva alla periferia di Vienna ed è una zona industriale, in mezzo a dei supermercati, in mezzo alla zona, ahimè, viene chiamata in Belgio la zona degli italiani, quindi non è che sia il massimo. Speriamo che sia a tutti gli effetti la corsa degli italiani, che ci manca da un po', ci manca da un po'. Non c'è un grande favorito quest'anno, l'anno scorso sapevamo tutti che al 95% avrebbe vinto Philippe Gilbert. Quest'anno Gilbert è partito con l'handicap se l'è dato da solo, è partito un po' lentamente, probabilmente ha fatto qualche bagordo di troppo questo inverno, però sta ingranando, perché era già andato bene all'Amstel Gold Race, piuttosto bene alla Freccia dove è arrivato terzo, quindi sicuramente domani sarà tra i protagonisti, però io credo che l'Italia e il resto del mondo siano sullo stesso livello, cioè ce la giochiamo. Cunego non sta male, sono andato a vederlo un paio di tappe al Giro del Trentino, ha vinto una bella tappa, è su di morale, molto probabilmente, anzi quasi sicuramente, farà parte della squadra del Giro d'Italia. Scarponi è meno felice, ma fa parte della partita anche lui domani alla Liegi, vuol far vedere che il capitano per il Giro è lui e quindi vuole ribadire sulla Redoute la sua forza, comunque i suoi galloni. Soprattutto vogliamo anche vedere come va Vincenzo Nibali, certo. Altra nostra pedina importante. Io personalmente voglio vedere un giovane molto molto interessante che ha fatto parlare, ma penso che farà parlare di sé nei prossimi anni, che è Diego Ulissi. Sì. A questa grande prova domani c'è il mondo che conta, il mondo, certo, grandi giri. Domani si chiudono la campagna del nord con la Doyenne, la decana delle classiche, e speriamo di portare a casa un grande risultato. Io sono moderatamente ottimista. Lo sono anch'io, anche perché Gasparotto e Pozzovivo mi hanno dato ottimismo in queste questa settimana. Mi sono dimenticato di Gasparotto. Hai fatto male. Grazie Pier Augusto. Ci sentiamo domani. Grazie. Grazie a te, ciao Carlo. Ciao, ciao. Grazie a Pier Augusto Staggi, e vi parleremo molto di ciclismo, soprattutto con il Giro d'Italia, sarà il nostro argomento privilegiato. Primavera. Ciclismo, sport per eccellenza che riparte, si rimette in moto per la primavera. Intanto viviamoci questo bel sabato di sport, sperando che laggiù in Bahrain, perché la mia preoccupazione è grande, ti confesso, che laggiù in Bahrain funzioni tutto insomma a dovere. Spero di non leggere altre notizie preoccupanti, diciamo così, anche perché quando c'è questo, cioè, è fastidioso, no? questo contrasto. In ogni caso l'esercito è schierato per difendere il circuito. Sì, no, per carità. Va bene Andrea, ci aggiorniamo alla prossima. Alla prossima. Ci aggiorniamo alla prossima, grazie ad Andrea Zorzi, a Giorgio De Luca in redazione, a Paolo Corleone in regia. Ci sentiamo noi naturalmente domani dalle 4:30 alle 7, appuntamento classico della domenica, e poi domani per il basket dalle 8:30 alle 9 con Palla Spicchi. Buona serata, ciao a tutti.